Sì. Allora. Scappa. Sto scalando la tua. Guarda, c'è la radio fredda, perché non picchi in modulazione oscillante. Cosa? No, là. Ancora c'è la radio fredda. Ah, si è accesa. Capa, a me sono accorto già. Cioè, vedi i notti. Hola. Già sta andando, va. Sai che l'aveva capigliato. Dice antenna, ma in questa azione sono basse. Sì, ecco cosa fa. Perché i picchi positivi ci sono. Capa. Va bene. No, non sono accesa, sono arrivato e stavo comprando cosa per non dover stare. Fatto bene. Ma il segnale sono sempre io? Sì, 9:15. Già va bene, allora, dai. Hola. Avanti. Vedi poco ha cambiato, capa, mi sto facendo scaldare quello là, dopo lo proviamo, perché ogni tanto vuole acceso anche quello là. Certo, poi vabbè, se ne stiamo lo stesso, anche io lo faccio rullare. Capa, 5 minuti e cambiamo la radio, va. Già sono qua. No, ancora lo faccio scaldare un pazzo, non ci vuole a freddo con quella roba. Ma non devo lavorare? Scappa. Ma io lo sì. E vabbè. Scappa. Ma dovrebbe essere quasi pronto. C'è gente che anni fa lo lasciava anche giorni e giorni attaccato, ma sono messo un peccato. Comunque. Basta 10 minuti, un quarto d'ora acceso, poi vai con la mano. Ai cazzo, roba di luzzi bagavani. No, beh, se non è in trasmissione non hai acceso il matto, non è che. Già lo so, ma che senso ha? Nel senso che quando è caldo è pronto. Capa. Beh, adesso lo proviamo, va. Fammi cagare un po' questa antenna. Con che radio l'hai accoppiata? Con 87. Ah, capa, già va bene. Ah, va, bruvemmo. Aspetta. Lo provo, così ti do. Vediamo se cambia qualcosa. Oh, tanto. Hola, va a vedere. Sì, c'è qualcosa in più. Capa. Sono un po' tarato. Ora. Com'è? Va bene. Vai quasi 9:25 con picchi a 9:27. Non raggiungi 9:30, ma magari se scalda un po' riesci a arrivarci. La mazza in infaria. Va bene. Momello. Quanti sono? Un po'. Due dizi. Ma cos'è? Il primo giorno 31? È modificato. Ma quello lì è? Ho capito. Andava bene. Che mi ricordo io quanto avevo a due? Boh, non mi ricordo. Non me ne ammetto, non sai, non l'ho mai aperto la verità. Ammazza di rivaria. No, ma già va bene così. Chi c'è già voce? Tu pensa, la mia prima stazione era un Midland Aran 48 con quello lì e l'MB più 5. Poi siccome la maggior parte di noi abitava la tua voce, c'era un sacco di gente che modulava, allora ho fatto di tutto per organizzarmi e mi avevo preso il 140 perché prendevo troppi splatter, quindi dopodiché ero io che disturbavo gli altri. Poi dipendemi, se c'è l'arma da guerra non fa vedere nessuno in chi per me. ancora di più, e quindi avevo altre cose, altre. Ma lì allora eravamo tutti vicino, quindi ci dovevamo attrezzare un po' tutti, perché c'era un sacco di gente che in zona sono attrezzato per avere solo splatter. Sì, già lo so, già. Naturalmente a Foglia Loro. Foglia Loro non mi ricordo di averlo mai sentito. Sì, se ti dico chi è, già te lo ricordi. Già te lo dico un giorno di splatter, la buon'anima. Vabbè, io ho iniziato nell'88, 88-89, inizio 89 diciamo, qualcuno che l'ho conosciuto. 96 c'eri? c'ero, allora, non c'ero nel 90-91 perché ero militare, però viaggiavo, c'avevo in macchina. Ciao. C'era una cosa incredibile. Ma che mi ricordo io, lì alla Torre ce l'avevamo io, Brunella di Italo, Totalo 2, Mario Mansell, Ettore Sagittario, che poi ce l'avevamo anche Brunella e Bacchisio, che schiaccava proprio, eravamo attaccati a Bacchisio, però gli davamo troppo un filo da torcere. E poi c'era anche Babbo lì a Torce. Bella 1, te lo ricordi? Chi? Bella 1. Cosa durava? Boh, non mi ricordo. Era Babbo Bella 1, te lo ricordi? Sì, Bella 1, Vela. Ehi! Sì, Vela 1. Ho capito un'altra cosa, poi c'era anche vabbè, la Friccia, Giovanni, ma c'era gente prima. Chiappa, qua era mio padre, era. Ah, ecco. Vela 1 era mio padre. Non lo sapevo tu. Chiappa. Andava bene, va bene. Tu, vedi, non va più nulla, ma ci voglio due io, l'antenna, la Ringo. Questa era la sua, era. L'ho piattata io qua. Sì, andava bene comunque. Ho aumentato a... No, è rimasto stabile, dai. Fai un passaggio. 1, 2, 3, prova. No, diciamo che sì, con i picchi non ne hai, è segnale fisso, capito? No, va bene. Sì. Cioè, adesso lo voglio vedere, aspetta un attimino. È freddo mio, questo qua l'ho appena acceso. Va freddo, va. Vabbè, però tu, dimmi una cosa, con che radio, che smitter stai utilizzando? Quello analogico. Vabbè, guarda il segnale. Sull'altro devi guardare, con l'altra radio, perché si attacca ma non vedi la differenza. Non so, adesso mi attacco l'altra radio, e questa un po'. Magari oggi è giusto, però è un po' così. Capo là, e si ne esce un ruizzo. Non ce l'hai un commutatore di antenna? No, stacco il PL e l'attacco. Ma ti devi fare un commutatore di antenna dove puoi utilizzare sia una radio che l'altra. Quando utilizzi una, giri il commutatore di antenna e la spegni l'altra, perché sennò magari rischi di rompere, capito? E poi la puoi utilizzare. Quando ti sei una radio non devi stare lì a attaccare né cavo né niente, giri solo il commutatore di antenna e spegni l'altra radio. Ce ne vuole uno buono, se non sa mai copia già tutto. Sempre uno di quelli blu, i miei piccolini, insomma, di quello che marcai, comunque già, sempre uno parecchi. Uno buono me ne vuole. Non vuole quello della ZG sicuramente, perché io ce l'ho quello della ZG, ma l'ho staccato. Ci può attaccare tre antenne, ma non mi piace. Si bruciano subito. Vabbè, prova a cambiare, dai, vediamo la differenza di questo. Ok. Sì, no. Stai innescando, guarda un pochino. C'è un'altra radio accesa. Vuoi vedere? Ecco qua. Va bene, dai. comunque quando hai fatto ora eri quasi lo stesso segnale di poco fa. Quasi, è vero. Vabbè, è come un picco. Esatto, quando vai in picchi positivi raggiungi quasi lo stesso segnale. Diciamo che ci arrivi con i picchi positivi a quel segnale che avevi poc'anzi, ok? Quasi, là. Sì, quasi, quasi. Guarda, questa invece, vedi un po' quanto è questo, guardami il segnale di questo. Ula, ula. Sì, quasi 9,20 qua. Aspetta, scusa un attimino. Quasi 9,20. Ula, ula. Quasi 9,20, ok. Aspetta un attimino. Quando parli va a 9,20. Aspetta che questo è freddo però, eh. Se 9,20 fisso. Ok, ma vuole... vuole scaldato un pochino, sta acceso. Questo addirittura non sta dando quasi niente. Deve scaldare. Aspetta che gli lascio la portante scritta così almeno si scaldano le valvole. Se faccio questo movimento 4 ogni tanto così, no? Vedi? Sta andando il salento piano piano, aspetta, eh? Lo so già. Adesso abbiamo quasi 200 watt. Adesso sono 200 watt, quant'è adesso? Giusto per... passaggio breve però, così riprendo. Ho aumentato quasi di 5. Ok, aspetta. Lo facciamo salire a manetta adesso, faccio salire. Cappa. Adesso accordiamo. Per lo smitter tu. Guarda un attimino, si è aumentato ancora. Già un grido io. Arzitta. Diciamo che adesso sono 500, guarda così. Sei quasi 9,30. Ma che c'è la faccia di braccio, aspetta. Aspetta. Vediamo così, sono quasi 5,50, deve scaldare ancora. Così era. Aspetta. Poi se ne scende. Come mai? Non rimane stabile. Aspetta un attimo. Qual è il motivo? Aspetta. Il motivo è che praticamente la valvola ora sta funzionando, è calda e quando tu fai un po' di bianco giustamente c'è la ventola di raffreddamento che le fa scendere, capito? Andiamo un attimino. Allora, com'era questa? Okay. così dovrebbe essere la massima potenza. Guarda un attimino, posso leggermente ancora aumentare, guarda se aumenta, però tu mi dici quanto è. Ora, ecco qua, questa è la massima potenza. 9,30. Cosa questo che ci riguarda? Testa. Ecco qua, questa è la massima potenza. Adesso ti faccio un passaggio senza niente, solo con la radio. Aspetta che attacchiamo. Eccola qua, questa è la radio senza niente, quindi adesso quanto sto arrivando io? 9,10. Non dammi di 20 dB. Però è poco, no. Guarda, invece sono di radio, adesso ti metto solo di radio. Posso aumentare ancora, ora. Vediamo fino a possiamo. Ora, ecco qua. Se sono il watt della radio, il massimo che posso dare. 9,15 così, a picchi da. Vabbè, adesso diamo di mezzo watt. Così una coppiata va bene con quell'altra. Va bene. Vedi, adesso lo spento, deve risalire, Ciappa, è già un casino quando lo spegne. Io ti devo lasciare, ci sentiamo, che devo fare roba. Ok, quando lo spegni questi a valvole fanno così, bisogna aspettare un attimo. Sì, infatti sta sorella. Va bene, ciao a tu, ciao, ti lascio. Fai pure, ciao. C'è qualcuno qua su 10?